quello che ha nel suo rino. Sto vedo tutto giallo e vero, però quest'anno sono figo e cucco lo so. Mi sento un poco stronzo e anche questo lo so.